que era y casi quería ser. Guardaba todas mis dudas para la soledad y delante de la gente aparentaba mucha seguridad. Mm. Mucha seguridad. Mucha seguridad. Mucha seguridad. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas y ganas de volar. Libre y ganas de poder sentirme como se quiere sentirme. Y es que tengo ganas de romper los esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y como no aparecieron esas acosadoras, esas que te persiguen casi siempre a todas horas, me decían: maquíllate, vístete como una persona normal. Lo que en realidad me decían era: sométete al sistema patriarcal, al sistema patriarcal, al sistema familiar, al sistema hetero, hetero, hetero, hetero patriarcal. Una enfermedad, que soy el bicho raro de esta sociedad. Me pedirán explicaciones hasta enloquecer, y si me da la gana, no les voy a responder, no les voy a responder, no les voy a responder, no les voy a responder. Y es que tengo ganas de romper ese esquema, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de poder sentirme como soy yo sentirme. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. No, na, na, na, no. No nos vais a adoctrinar con vuestras imposiciones sociales, lesbófobas, sexuales, capitalistas, autoritarias. Buonasera a tutti, a tutte, gli interconnessi e le interconnesse. Capitalismo ha voluto boicottarci, infatti ci sono stati un po' di problemi tecnici, abbiamo iniziato anche un po' più tardi del solito, come se solito significasse qualcosa se questa è la prima puntata. Benissimo, iniziamo già bene. Comunque, io sono Sveva. Io sono Gioia. E oggi siamo qui per presentarvi la puntata settimanale del programma Ribelle, che è un programma femminista che tratterà di argomenti inerenti al genere e a tutto il mondo dell'antisessismo e del femminismo. Presenteremo delle poesie, declameremo testi scritti e poi porteremo le nostre riflessioni riguardo appunto a quello che leggerete, ascolterete anche attraverso dei brani di alcune canzoni selezionate da noi. E nulla, siamo qui e oggi vi introdurremo al nostro programma mandando in onda un paio di canzoni appunto scelte da noi. La prima sarà Ni Una Menos, la canzone di Ni Una Menos, che si chiama Sientelo, che è di Chocolat Remix. E buon ascolto a tutte e a tutti, ci ritroviamo tra poco dopo la fine della canzone. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. No nos coge ni jugando al parchis. Cachis, yo chile me vendo mucha colichis. Perturban el sueño en tu cabeza, miche crachis. Ya medio quiso cada ruido suena. Más de una década real como Raki me espera. Cuestioname referente, imáname y a mis traperas. Hoy hace buena noche pa' la caza de sofiras. Organizando el comando, afilando las tijeras. Corre campana, no temo enemy. Mira su machino, viene por chis. Toda la esquina guarda mis hermanas. Ya estamos ready, lo van a sentir. Este sound de la police. Pero esta vez no son ellos los que vienen a por ti. Esos aires de pipines no nos representan. Sistemas de amor son violencia y nos representan. Cuando todo lo rima con puta nos representa. Esta vaina pica si es tu puesto lo que tiembla. Destrona al líder lado, ellos se fue, voló, lo descontrolo. Haters gonna hate, pero no vienen solo. Quieren opinar, jugar, ver de dónde se puede sacar. Y se quedan rabiando al fondo de la sala, nuestro polo. Microphone check, micro, microphone checka. Tú quieres vicio, traigo skill pa' tosa feca. Antalla woman y luego tan guapo cada tomo. Se acaba una farsa raperitiva. Ed eccoci qui. Adesso introduciamo un po' l'argomento di oggi, riprendiamo quindi un po' quello di cui abbiamo parlato domenica, al nostro debutto. E allora, ci chiedevamo l'altro giorno, visto che siamo una radio femminista, eccetera, eccetera, cos'è il genere? Direi che è un po' la base su cui si fonda un po' tutto questo discorso. A questo proposito... Tra l'altro, scusa l'interruzione, io ho sempre saputo, giusto per insomma far sapere, che il genere è una costruzione sociale, ma non ho mai davvero sentito parlare una persona di genere, quindi mi interesserebbe moltissimo adesso che tu insomma mi spiegassi attraverso i tuoi studi e gli strumenti che hai acquisito qual è il concetto di genere. Va bene, allora, sempre in maniera di interrogazione, Zeva mi chiede le cose. Però io questa volta sono ancora più preparata dell'altra volta e ho scritto un breve riassunto di quella che potrebbe essere una possibile definizione di genere, che adesso provo a leggervi. Prima faccio un'altra breve introduzione dicendo che io ho studiato sociologia, quindi il linguaggio che utilizzerò è più sociologico. Spero che comunque possa essere comprensibile. Ho cercato di fare in modo che potesse essere chiaro a tutti e tutte e tutto. E tutto con asterisco, mi suggerisce Sveva. Sì, gioia. E quindi niente, adesso vi leggerò un po' quello che ho scritto. Allora, cos'è il genere? Cosa intendiamo quando parliamo di genere e di questioni di genere? Spesso il termine genere viene utilizzato come sinonimo di sesso, come se queste due parole fossero interscambiabili. È davvero così? Ma partiamo con ordine e risaliamo alla sua definizione. Genere è un termine ombrello che viene utilizzato per distinguere tra le differenze biologiche di sesso e i significati culturali e simbolici legati a quelle differenze. In altre parole, possiamo dire che racchiude l'insieme di significati che diversi gruppi sociali conferiscono alle differenze di sesso. Quindi, si tratta di costruzioni sociali che si articolano attorno a membri sessuali diversi. Questo significa che se nasci con un determinato sesso, verrai socializzato e quindi educato da tutta la società intera al genere corrispondente. Chiaramente, quando si parla di questo meccanismo, si sta parlando all'interno di un fenomeno sociale, il che significa che si va oltre al caso particolare, guardando al fenomeno con una visione d'insieme. Genere è dunque un termine politico, perché problematizza ciò che fino ad un certo momento storico è stato dato per scontato, mettendo in discussione il senso comune riguardo a ciò che viene visto o percepito come naturale o innaturale. Viene infatti percepito come naturale l'essere eterosessuali e innaturale l'omosessualità. Per esempio, inoltre, viene appunto ritenuto e percepito come naturale il fatto che sia prerogativa femminile il lavoro di cura, come anche l'istinto materno. E poi ovviamente ci sono molti altri esempi. Parlare di questioni di genere permette di problematizzare tutto questo. Essendoci comportamenti, attitudini, compiti, ruoli e tanto altro già preconfezionato ai quali dobbiamo sottostare, ciò ci crea ovviamente molti disagi e disagi di ogni tipo. Non solo infatti ognuno e ognuna deve sentirsi libero e libera di poter fare anche ciò che il proprio genere assegnato alla nascita non prevede. Per esempio, se non è previsto che gli uomini possano indossare delle gonne, è giusto che se un uomo abbia voglia di indossarlo, che lo faccia, no? È giusto anche, io direi, mi è venuto in mente adesso come esempio, che se un uomo vuole depilarsi, si può depilare tranquillamente, sono scelte personali. Sì, chiaramente sono scelte personali, poi in realtà sulla questione, l'argomento, il tema depilazione, a me piacerebbe fare un altro approfondimento qui in radio, e che faremo sicuramente. Comunque, continuando un po' il filo del discorso, quindi ci sono questi comportamenti che attitudini eccetera eccetera che dalla nascita ci vengono insegnati e che ci mettono appunto a disagio e creano disagio all'interno di noi e ovviamente anche poi ciò ha anche dei riscontri in tutte le relazioni che noi instauriamo. Quindi non solo infatti ci sono appunto queste cose, ma tutto ciò sta anche alla base di discriminazioni che si ergono su gerarchie, che vedono prevalere un genere su un altro, il maschile sul femminile e su tutti gli altri generi. E questo appunto, come dicevo, attraverso ogni sorta di relazione. Per concludere questa definizione, genere è un termine che problematizza una questione esclusivamente culturale, proprio perché attraverso un processo che coinvolge tutti gli ambiti della vita sociale vengono prodotte le nostre identità. Dicendo che è una questione culturale, e questa è anche una cosa molto importante, stiamo prendendo in considerazione la dimensione relazionale, che è quella che trasmette ogni forma culturale che caratterizza le nostre società. Bene. Dopo questo pistolotto introduttivo, vi sarete già subito annoiate tutte, immagino. Sì, Gioia, penso proprio di sì. Però comunque, direi di alleggerire la situazione mandando in onda un altro paio di brani. Facciamo scegliere a Gioia. E sta per selezionare la canzone di MC Nil, Gender. Non mi trovi sul time, faccio quel che voglio, ma job is my life. Cerchi di prendermi a naspa ti mandi in Alaska con un bacio. Vengo dai cerchi che cerchi ai concerti, voi belli ma pochi concetti. Nessuno che mi fa le doppie, voi perdete il fiato e ce ne avete 20. Senti, carta penna, prendi appunti, nidi scarta, segna punti. Belli bimbi, bravi tutti, ma non gioco con voi, preferisco gli adulti. Ti voglio bene Denver, solo se resti un dinosauro e non inizi a fare rapper. Io non ho rap rapper gigante che spinge le mie azioni e i miei movimenti. Ma se sei furbo acquista ora le mie azioni e segui i movimenti. Le mie solo canzonette e i vostri solo motivetti. Sono lucido per voi morti viventi, continuo gli idoli morti distenti. Tutti insieme a tavolini, sì. Solamente se si mangia, sì, sì. Questo è un aperitivo, sì. Serviamo solo acqua rage, sì, sì. Sono una regina raja, sì. Swingo da uno chandelier, sì. Non torno in fila, ti butto fuori, sachet, away. Corri, corri, scappa, sta arrivando gente. Corri che ti acchiappa, sta arrivando gente. Corri, corri, scappa, sta arrivando gente. Corri che ti acchiappa, sta arrivando gente. Arriva il gender, il gender arriva di notte. Prendi i bambini, serrate tutte le cose. Arriva il gender, nella notte tenebrosa. Ti addormenti bigotta e stordita, poi ti risvegli che sei favolosa. Favola. Nessuno pensa ai bambini, nessuno pensa ai bambini. No, nessuno pensa ai bambini. Nessuno pensa ai bambini. Arriva il gente, gente è urgente, urgente. Poi vi rovina i figli, che se diventano più intelligenti voi stronzi. Poi cosa avete da dirgli? Favola. Voglio proprio vedervi, anzi una scusa, ci ho ripensato. Quando vi vedo mi prendono i nervi. Ma è stata bene nel ruolo di genere, ho assunto il ruolo del genere. In genere parlo di me per parlare di te e trasformo gli omofobi in genere. Vivi di body di gender, vivi di body di pender. Quando uno scemo mi giudica si fa del male, io non mi faccio un bel niente. Sentinelle, sentinelle, scendono in piazza, devono proteggere. Chi mi protegge da un pazzo che sta in piedi in piazza per ore e fa finta di leggere. Sentinelle, sentinelle, guidati da luce del Signore. Scusa Signore, non ti conosco, spegni questa luce per favore. None, none, che situazione, che gente vuota. Ogni mattina mi sveglio benone, poi mi ricordo che sta gente vota. E quando vota, pensa che sta perché vota. Ma è idiota, in realtà non sa niente. Vieni con noi che è più divertente. Sali sopra il carro del gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando gente. Corri che ti acchiappa, sta arrivando gente. Corri, corri, scappa, sta arrivando gente. Corri che ti acchiappa, sta arrivando gente. Arriva il gender, il gender arriva di notte. Prendi i bambini, serrate tutte le cose. Arriva il gender, nella notte tenebrosa. Ti addormenti bigotta e stordita, poi ti risvegli che sei favolosa. Favola. Sono né carne né pesce, e per di più ho poche tette. Entro nel bagno delle signore, vengo cacciata dalle vecchiette. Non sono né carne né pesce, non sono come si vorrebbe, e non lo sarò mai, guai, ci mancherete. Perché io sono il gender. Corri, corri, scappa, sta arrivando il gender. Arrivando gente, corri, corri, scappa, sta arrivando gente. Corri che ti acchiappa, sta arrivando gente. Arriva il gente arriva di notte. Prendi i bambini, serrate tutte le volte. Arriva il gente, nella notte tenebrosa. Ti addormenti bigotta e stordita, poi ti risvegli che sei favolosa. Ed eccoci di nuovo qui. Salutiamo Tecla che ci ha appena raggiunte, sarà una nostra collaboratrice di questo programma radio. Ciao Tecla, come stai? Hey people, io tutto bene, voi? Dai pubblico, commentate! No, comunque sono troppo emozionata, cioè sento un'energia molto pussy qua dentro che mi sta... impulsivamente agitando. Perfetto, andiamo avanti e andiamo con Gaupasa di Tribad. Io mi mantengo in la umiltà, non sei tu segretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar, que no pueden discrepar, hacerse adicta, que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati mamá, de mi pati mamá. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te enaleta a los vecinos. Estamos de Gaupasa, más de 40 en el peli. casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo, el lápiz de ojo restregado hasta la frente, y el abrigo lleno mierda siempre, ma, ma, mamá, masiva, ¿dónde vas? Con esa pinta no puedes entrar, su pelo todo rojo, tu forma de andar, más raperas que la goma en los pantacas, pana, más polémicas que la barba de mi hermana, sacarte mi tabaco, que vengo con ganas, la sonrisa puesta, las garras afiladas, comida familiar, normal que de mí no se fíe, mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe, la oveja negra, la extraña, la excéntrica, la que hace menos gracia cuando te replica, cuando incomoda no mola ya chica, si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques, yo dejo pasar la azotea con mis chiques, conmigo no cuentes, chame de comer aparte, no me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante, porque rechista, cerveza sin limón, en la fiesta no mixta de colocón, las desheredadas primas síguenos la pista, esto es levo, kiki, rap, transfeminista. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere, se referencia. Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere, se referencia. Leyendo Eric Trump, escuchando a Cameron, dando charlas de formación o bebiendo ron, sexo, dramas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo para tanta gestión, estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción, dando palmas y cantando con acento acharnegado, en la calle, en la vaina, en el parque de al lado, el polito impoluto, el pelo siempre despeinado, no cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje, cada verano más pereza depilarme, lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero... Mira qué bonita mi manada. Tengo panénica, nénica, sé. Tengo a mi comadre pa' pasarlo bien. La única tal no sé responder. El amor que está no lo quiera saber. El caos de siempre, más ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. Yo no sé la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta los vecinos. Te estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El cine que viene te juro que no me lío. Yo no sé la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta los vecinos. Te estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El deseo de todos los pueblos de vivir en un mundo mejor de justicia y que las armas no lo empuñamos nosotros, sino es el enemigo que siempre está apuntando sus armas a nosotros, que siempre nos está matando, que siempre nos está ultrajando. Entonces hemos llegado a la conclusión nosotros, aunque por elecciones lleguemos al poder, yo pienso que sí, el pueblo tiene que armarse para defender ese poder. ¿Por qué hicieron esto estas mujeres? Porque la Iglesia Católica era su principal enemiga. La Iglesia las quería tener confinadas en casa, sin acceso a la educación, es por esto que veremos muchas mujeres quemando las escuelas, porque era un símbolo de una venganza de clase. Thank you.

e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta. E soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli. Poi ti volti e non sai ancora dire. E taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra e innanzi il tuo canto d'amore a tutte le donne di Alda Merini. Cari ascoltatori, volevo aprire questo mio primo giorno insieme a voi con questa poesia di Alda Merini, grande donna, grande poetessa, grande femminista, che ha trattato tematiche femmine, ha parlato molto della sua vita, della sua sofferenza, della sua pazzia all'interno del manicomio. È stata giudicata brutalmente e ha lottato tanto, una donna che ha lottato, e per questo spesso vorrei leggervi poesie di Alda Merini e non solo. Mi piacerebbe dedicarmi alla parte un po' poetica di questa puntata, mentre avremo la parte psicologica e sociologica di Gioia e Sveva, che cazzona, non scherzo, e Sveva che ci interroga. Io sarò spietatissima, sappiatelo, vi metterò in difficoltà, le pagelle arriveranno. Aiuto. Intanto io ringrazio Tecla perché è stata una lettrice, attrice fantastica, e ci servono più donne come lei. Que viene de las entrañas, esencia de energía que viene de las entrañas, de las entrañas, sal, sal, sal, sal, de las entrañas, sal, sal, sal, sal, aquí no haces nada, sal, sal, sal, sal. De las entrañas, sal, sal, sal, sal. Aquí no haces nada. Abbiamo ascoltato Essenzia di Kete Calis. E ecco a voi No Depilada. A proposito di quello che abbiamo nominato prima, di La Pili Fit Bejo. De mi bellosidad, yo la belleza la tengo arruga, en el 219 no voy de pila, parece futura pero está para atrás, sé lo que tú quieres, no te lo voy a dar, vete pa' tu casa, tú no puedes pilar, espero que todo esto te pille confesa. Ella está peluda por donde duda, no hay duda, le falta papa, le sobra pechuga, como la Pili no hay que lo sacuda, ella es bella, belleza, belluda, para presumir hay que sufrir, pero Pili presume sin usar Cytrefil, ella lo deja crecer, está bien así, no hace mucho caso de lo que digan por ahí. Me quiere lapidar porque no voy de pila, Pili viene de pilar, es mi estilo capilar. La Pili es peculiar, peculiar, peculiar, ey, la Pili es peculiar, peculiar, peculiar. Me quiere lapidar porque no voy de pila, Pili viene de pilar, es mi estilo capilar. La Pili es peculiar, peculiar, peculiar, la Pili es peculiar, peculiar, peculiar. Soy peligrosa, belluga como osa, no soy pilonga, mueve la mondonga. Soy peligrosa, tengo el inglés famosa, no soy pilonga, dale, dale, comba. No voy depilada, yo voy abrigada, no voy depilada, toda cabellada, no voy depilada, no voy depilada, todos quieren mi rosquilla azucarada. Horripilada, todos quieren mi rosquilla azucarada. que no se hace la cera? ¿Será que es sincera, mera? ¿Por qué será que no se hace la ingle? ¿Será que es bilingüe, ingüe? ¿Por qué será que no se hace la láser? ¿Será que no le place mi parce? ¿Por qué será que no se hace el picote? ¿Será que tiene cipote? Me quiere la pila porque no voy de pila. Pili viene de pilar en mi estilo capila. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. Hey, la pili es peculiar, peculiar, peculiar. Me quiere la pila porque no voy de pila. Pili viene de pilar en mi estilo capila. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. La pili es peculiar, peculiar, peculiar. A veces me depilo, a veces no. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu mondonguito. A cobrarle los daños y perjuicios. Echen los cerrojos, se escondan a los niños. Viene la feminista repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo, diagnosticaron. Por querer quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos que solo el odio rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas, fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita. Yo me veo perfecta, ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Se comenta por ahí que unas locas andan sueltas, maleducadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase, partimos la pana, no nos hace falta traje. Con vallas, con el chándalo, medio culo al aire, las capas de los barrios aprendimos de las calles. Observa estos andares que nos caracterizan, llámalo de zen, aquí no hay inocencia. E abbiamo ascoltato Mantenio Patriarcal di Ira. E seguirà Curao, sempre di Ira, che verrà accompagnata dalla lettura di una poesia che farà Tecla di Marina Svetaeva. Troppo presto per non essere. Troppo presto per non ardere. Me la estoy escribiendo en el autobús. Dolcezza. Sferza crudele di incontri ultramondani. Un hombre en una bala, si tengo que marcharme. Allungati quanto ti pare. Tanto il cielo è un sacco sfondato. Oh, per un amore come questo, troppo presto. Senza tormento. Vive la vita di gelosia. Il sangue freme di fluire a terra. Ha diritto la vedova alla sua spada. Vive la vita di gelosia. Ti benedico, supplizio dell'anima. Ha diritto lo stelo alla sua falce. La pulsione segreta dello stelo. Ogni germoglio recidi. Perso l'ultimo brandello. Troppe pene le mie. Fin quando lui non mi ricuce. Sanguino. Con i punti eterni. Troppo presto per i ghiacci del mondo ultraterreno. No, e questa era la poesia appunto di Marina Zvetaeva, una poetessa russa che nella sua vita, come stavo dicendo a Gioia e Sveva, è una donna che ha sofferto molto, si è innamorata tante volte ed è stata spesso trattata male dagli uomini perché insomma la picchiavano e lei ha amato tanto e tutta questa sua grande sofferenza l'ha tramutata in poesia con una femminilità sanguigna, direi, perché lei parla molto spesso di tagli, di sangue, di un corpo che probabilmente si è sentito messo un po' sotto dal maschio, represso, quindi, e fa sentire la sua rabbia all'interno delle parole, una rabbia che viene incalanata con la poesia. E niente, questa era Marina Zvetaeva, che vi assillerò tantissimo con questa poetessa, già ve lo dico. Beh, siamo molto contenti di questo, che ci assillerai con queste poesie. Fa sempre bene al cuore anche sentire testimonianze di qualsiasi forma e caspita, un ricordo a, come si dice? Marina Zvetaeva. Ecco. Questo nome altisonante, tra l'altro volevo dire che il libro si intitola Scusate l'amore. E come dicevo prima a Gioia, questo ci fa capire come spesso noi donne amiamo, ci prendiamo cura degli uomini e poi dobbiamo pure chiedere scusa perché amiamo, no? Scusate, sono un po' incazzarruto il ciclo. Eh no, caspita, penso che ci siamo passate tutte in un modo o in un altro. E quindi penso che tutte le persone che ci ascoltano oltre a noi possano capire anche un dolore, una rabbia simile. E niente, allora adesso annuncio questa canzone di Ira che si chiama Peligro. Stanotte la balanza si inclina e si apuesta por las puertas, se apuesta por las mías. No los confunda de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando. Peligro, peligro. No los confunda de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando. Peligro, peligro. Tengo los nervios galopando como galgo, buscando una paz interior que no tengo. Escribiendo ebria la rosanda en mi tango, enfriando los platos de quienes me vengo. Reina, cuéntame el cuento en la cama. Dicen que las brujas y las hadas se aman. Quieres volar alto, yo te llevo. Así se me quemen las alas. Tengo el techo hecho a los contratiempos. Un olvido presente en todo momento. Mi alada es que solo olvidaste tu chico. Yo la llevo grabadas a hierro. Perdóname la vida, como yo me perdono los aires de diva. Que la grandeza es relativa. Nos veis muy chiquititas desde arriba. No nos confundas de rango. flechas y un arco al estilo vikinga. Todos quieren la sartén por el mango, le jodan al mando, da igual quien lo tenga. No nos confunda de rango, nos escurrimos como los anfibios. Esa bruja de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. Perché può succedere che spesso che il femminismo sia quasi una l'unica possibilità di via per uscire da situazioni complesse di violenza o di sottomissione, di relazioni malsane. E quindi ci piace questo programma radio e speriamo piaccia a tutti. Siamo tutte entusiaste. Mi ricollego a quello che ha detto Gioia, proprio perché oggi in treno, mentre pensavo di iniziare la puntata, stavo pensando proprio questa cosa qua, che a volte è proprio così, il femminismo è una via di uscita verso alcune violenze che le donne subiscono, e probabilmente si avvicinano al femminismo per capire l'importanza della donna nella società e come mai è importante la parità dei sessi, come mai viviamo in questa società dove il patriarcato è ormai al capo di tutto. Siamo una società maschilista e macista, vorrei sottolineare, e quindi spesso le donne si avvicinano proprio al femminismo per questi motivi qua, per capire come mai e perché, e soprattutto per non rimanere in silenzio, perché bisogna dare una voce a tutto questo, non bisogna stare zitti. Settimana scorsa c'era una mostra bellissima in via Tortona, una mostra organizzata dal CADMI, che è un centro antiviolenza in Porta Romana, e in questa mostra ci sono stati dei dibattiti tutti sulle tematiche di genere, sulla violenza, e sono stati anche proiettati dei film e c'erano dei manifesti di donne. Tra l'altro ne potrei leggere uno, scusate, io parlo un sacco, e ve ne leggo uno. Tra l'altro c'erano questi manifesti, vediamo se lo trovo. Eccolo qua, c'era questo manifesto che diceva: no dominio, no dipendenza, no denigrazione, no danno, sì donna. Quindi erano proprio dei manifesti molto importanti, e purtroppo è finita, però erano veramente stata una mostra bellissima. E niente, basta. Finito il mio sproliloquio. Andiamo avanti con la canzone. Somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punky, las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que sacas a de callarse la boca. Somos letras de la migrada. Somos las que no se rinden jamás. Poro, po, po. Poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, poro, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ay, tía, pues de golpe se me puso a bailar de lado. ¿Qué dices? ¿Cómo que de lado? ¿Eso cómo se hace? ¿Y tú qué hiciste? Pues nada, tía, yo le dije, báilame pegado, báilame pegado, báilame pegado, báilame pegado, báilame de lado, báilame pegado, báilame. Ya me baila lento, me baila pegado. Tiene la corona y lo parte en Madrid y lo parte en Barcelona, pero ella no quiere el trono, quiere saber cuándo será el próximo polo. Follame la mente, me folla lentamente, follame y luego miénteme, miénteme. Tienes toda la carita de haber llegado pa' dolerme, tu labio de sándalo, bailame desnuda, viaje de Láudano, la décima musa, poetisa de la luna en ciudades intermitentes, infiernos paralelos, sin palabras imprecisas, las miradas a destiempo, los versos con las prisas, las manos rebeldes y los ojos que sonríen, la miro cuando camina y no sé lo que me pide, casi desconocidas, casi desconocidas. Pina, pina, nadie la domina, mami si te pone encima, subido en anfetamina. Pina, pina, nadie la domina, mami si te pone encima. Ponía a vibrar a la sala con sus aires de mala. No me dice nada, yo no sé lo que le pasa. Yo no sé lo que le pasa, yo no sé lo que le pasa. Oye Elvira, dime algo por el WhatsApp. Y ya me baila lento, me baila pegado, en todos los bolos donde hemos tocado. Y ya me baila lento, me baila de lado. No sé lo que tenemos, no lo hemos hablado. Y ya me baila lento, me baila pegado. Tiene la corona, lo parte en Madrid y yo lo parte en Barcelona. Es la más chula del barrio. Te pasa delito, chico, te trae el malfarrío. Ella mi fe me está quemando la Siri. Perderme en el fuego es su juego cuando se enciende el piti. Sobran las palabras, ella sabe que es la reina. Deja prenda y co hasta el aire que la despeina. No quiero más de lo que tú me quieras dar. No quiero darte menos de lo que mereces. Cuando más te bebo, más se tengo, eres agua de mar. Y yo intentando destacar entre otros peces. Todo lo que soy es por mi gente y por los viajes. Lo que he aprendido y lo poco que sé, no sé. A veces veo mi vida como en un largometraje. Desde fuera con un nudo esperando el desenlace. Bonita de cara y de cora, de cara y de cora. Si quieres nos vamos juntitas al Valle de Colca a mirar cómo pasan las horas. Bonita de cara y de cora, de cara y de cora. Al final quedaré prendadita tu forma de hacerla. Mis ojos brillar, reenamora. Mi musa tiene la corona, lo parte en Madrid, lo parte en Barcelona. No vendió, se apartó del mal, un puño en el armario, con su alma sanada. Mi musa es bueno como el pan, no juzgo el pasado ni antes de empezar. No partimos de los celos porque son normal. Él me baila lento, me baila pegado, yo sé lo que tenemos ya. Chito, cariñitos al despertar, cocina que lo flipa, no sabe limpiar. Respeta mucho cuando quiero hablar. Nos enseñamos lo que realmente amar. Me gusta acompañar y dejar en paz. Tener el tiempo justo para ensuciar. Tomamos decisiones como yin yang. Nosotros el disco de oro, el talismán. Libre contigo. volé y en la fiesta me planté. Todos me quieren ver en lo que sé y en lo que sé. E questa è Mujeres di Tribade. E siamo arrivati alla conclusione di questo incontro. Sono le 19:38 e è stato un bel incontro, ragazzi, vi faccio i miei complimenti. E niente, ci le pagelle arriveranno. No, arriveranno, sarà... No, le vogliamo subito. No, no, rimarrà un mistero. Io vi torturerò psicologicamente. No, comunque, siamo arrivati alla fine. Vi facciamo tanti saluti e ci rivediamo martedì prossimo alle 18:30 per finire poi alle 19:30. Buona serata a tutti e un bacino da tutte noi, Sveva, Tecla e Gioia. Ciao ribelle. Ciao ribelle. Buona serata. Las calles, donde no van a la uni los chavales, de la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres, somos brujas de la luna y de la noche eterna, mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas, necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio, somos herederas del bicicleta y de la sapo, perras callejeras caminando solas por la noche, lo vas acechando al machote que nos acose, por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda, miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna la gata, tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas, las noches en vela, las sospechas y la pena, crucificadas por el patriarcado, decimos entre sombras en segundo plano, cómo tener miedo en nuestro propio terreno, saca tus manos y mente de mi cuerpo, mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre, la manada guarda, cuidadito conseguirme. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Muere, muere, muere, resistencia. Muere, muere, muere, sabes lo que vales, hija de la vida.